Innanzitutto i numeri, come sempre. Sono 33.000 i positivi al virus, 4.500 i guariti, 3.400 i morti trovati positivi a Covid-19, più che in Cina, dove a Wuhan per il secondo giorno consecutivo non si registrano nuovi casi endogeni, ma solo 39 importati. Per il resto, andando all'estero, sempre negli Stati Uniti, in 24 ore è raddoppiato il numero dei contagi, ormai siamo a quota 13.000. La Lombardia chiede una stretta ulteriore, la chiusura di studi professionali, cantieri e altri uffici, la riduzione degli orari dei negozi, lo stop alle attività all'aperto, l'intervento dell'esercito per controllare le strade, mentre Milano fa segnare una crescita dei contagi doppia rispetto al giorno precedente, oltre 600 persone. C'è poi il fronte economico. La mossa dell'altro ieri della BCE ha placato i mercati, ma il presidente del Consiglio Conte dice che la politica monetaria non basta e chiede un intervento con tutta la potenza di fuoco del Fondo Salva Stati. Questo è 24 Mattino, io sono Simone Spezia e possiamo iniziare. "24 Mattino" di Simone Spezia. Come ogni mattina, cari ascoltatrici, cari ascoltatori, cari amiche, cari amici, iniziamo così, con questo che abbiamo scelto come nostro inno. Non è un inno per indurre false speranze, ma per provare ad esercitare un po' di ottimismo, farci soprattutto un po' di coraggio in una fase difficile, complicata, testimoniata dai numeri di ieri, quelli che vi ho appena raccontato, con un numero di contagi che cresce, un numero di vittime che cresce, una Lombardia sempre più in difficoltà, una Bergamo stretta nella morsa del virus, una Milano più spaventata. E però, insomma, proviamo a pensare, a farci coraggio, a dire che a un certo punto tutto questo finirà. E diciamocelo, ditemelo, ditemi anche come la pensate, come state vivendo queste ore, se siete al lavoro, se siete in giro, se siete a casa, come dovreste stare in gran parte. Al 349-238-6666, WhatsApp, soprattutto audio, le vostre voci sono importanti in questi giorni. Peter Bescapè in regia, Lorenzo Nespoli e Giorgio De Luca in assistenza in redazione per questa puntata di 24 Mattino. E iniziamo con qualche voce. Le voci dalle quali vogliamo iniziare sono quelle di questa Lombardia in difficoltà, del presidente della regione Attilio Fontana, che chiede una stretta ulteriore. Ho chiesto al Presidente di ridurre ulteriormente le possibilità che ci sono per la gente di recarsi in giro. Basta corse, basta biciclettate, bisogna rimanere a casa, ma anche basta tre volte uscire per andare a fare la spesa. Ma l'ultima richiesta che ho fatto al Presidente è chiudere tutti gli uffici privati e pubblici, salvo quelli di pubblica necessità. Chiede Fontana anche l'intervento dell'esercito. Guardi, io ho cercato di spiegare ancora una volta la drammaticità della situazione, ho cercato di convincerlo che si devono assumere dei provvedimenti più rigorosi. Il primo provvedimento che si deve assumere però è a questo punto, dopo settimane di appelli, di inviti, bisogna fare in modo che le regole lasche o serie che ci sono vengano rispettate veramente, perché oggi ho incontrato anche il vicepresidente della Croce Rossa cinese, il quale mi ha detto: con tutta questa gente che circola voi non interromperete mai il virus in Lombardia, quindi che le norme che già sono state fatte vengano rispettate seriamente e severamente. Quindi ho chiesto che ci sia l'intervento dell'esercito. Così dunque il presidente Fontana. Tra le ipotesi che stanno circolando, ne abbiamo parlato ieri col vice ministro all'interno Matteo Mauri, se poi volete andare a riascoltarvi la trasmissione di ieri delle 8:20, le interviste che abbiamo realizzato con Maria Latella, c'è il tema dei supermercati, accorciare i tempi di apertura. O magari, come dice Luca Zaia, il presidente del Veneto, la chiusura dei negozi la domenica. Le foto di Corso Garibaldi, di via Garibaldi, scusate, di Venezia di questa mattina, sostanzialmente che sono foto di passeggiate di comunità che non sono assolutamente in linea con il tema del restare a casa, del stare attenti al contagio e di avere prudenza per quello che rappresenta l'uscire di casa. Spero che il governo anche si decida di chiudere i negozi la domenica, quei pochi negozi rimasti aperti. Penso che non sia necessario e assolutamente indispensabile andare la domenica a fare la spesa. Eh già, però se tu, il tema qual è? Se tu accorci i tempi di apertura dei supermercati e magari li chiudi di domenica, qual è il rischio? Il rischio è che la gente si affolli negli altri orari, un po' come è successo l'altro giorno, le ricorderete le foto, le immagini, i video che sono circolati della metropolitana di Milano. Metropolitana di Milano super affollata, perché poi ci sono una serie di servizi che proseguono, c'è gente che continua a lavorare. Perché era super affollata? Perché la gente è matta? Non perché la gente è matta, ma perché se riduci le corse di tre quarti, evidentemente la gente, quando ci sono quelle corse, va a prendere quelle corse. Allora forse, mia personalissima opinione, magari qualche incentivo all'assunzione di personale temporaneo per i negozi e per i supermercati, perché anche, lo sappiamo perfettamente all'ascolto, sappiamo che c'è tanta gente che lavora nella grande distribuzione o ha un negozio. In questo momento queste persone sono pesantemente sotto stress e quindi hanno bisogno di un ricambio, non è che possono stare aperti, non è che possono stare 12 ore ad una cassa di un supermercato, lo sappiamo perfettamente. Magari qualche incentivo di quel tipo potrebbe aiutare, invece li tieni più aperti, dilazioni nel tempo la possibilità di andare a fare la spesa e forse in questo modo si migliorano le cose, non lo so, è un'ipotesi, ve la butto là. Non ho, ricette definitive, come pochi ce le hanno in questo momento certamente, però insomma è una cosa secondo me sulla quale ragionare. Il tema dell'andare in giro, del fare jogging, del fare sport, il presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, che tra l'altro, lo ricorderete, no? Un po' se ne è parlato prima del voto, era... C'era tutta questa storia per la quale Bonaccini improvvisamente, da un tipo piuttosto grassoccio, era diventato un tipo molto fit, e dice, vuoi andare a fare jogging? Ti spiego io. Se vuoi andare a correre, farlo solo con le misure di sicurezza intorno a casa. Lo dico perché vedo ancora troppa gente, per fortuna molta meno di prima, ma ne vedo ancora troppi irresponsabili per quanto mi riguarda. E se qualcuno mi vuol venire a spiegare che rinunciare a fare il jogging, se non si è in sicurezza rispetto a coloro che incontri o a te stesso, mi viene a spiegare che è un problema drammatico, lo prendo con me e lo porto a vedere i reparti ospedalieri. Perché adesso bisogna che non scherziamo più, bisogna che spieghiamo alle persone ancora di più, e per fortuna tanti stanno collaborando, ma ancora non tutti, che i sacrifici di oggi che ognuno di noi fa servono per sorridere domani. E chi ci è passato dal virus è Pietro Poidomani, che è un medico di base a Cividate al Piano, siamo in provincia di Bergamo e quindi nel cuore di quella che al momento è l'emergenza, e che appunto il virus l'ha contratto, ne è uscito, è tornato a lavorare. Buongiorno Poidomani, benvenuto. Buongiorno, buongiorno. Allora, come vanno le cose? Innanzitutto ci racconti un po' come è stato, perché non è che ci sono tantissime occasioni di parlare con persone che ci sono passate dal virus. Per fortuna devo dire che ho fatto un'esperienza, diciamo, a 360 gradi, perché sono partito da quello che doveva essere più sano e curare i più malati, sono diventato malato, adesso sono ritornato sano, convalescente ma sano. Che vabbè, cosa ha avuto, la polmonite come, o solo febbre? Ho avuto una polmonite interstiziale abbastanza massiva, è difficile da descrivere la situazione soggettiva, perché effettivamente uno si rende conto, ed è quello che sta succedendo nei reparti di terapia intensiva, si può passare da una vita reale all'agonia mortale per mancanza di aria nel giro di 2 ore e mezza, 3 ore. E lei è stato senza aria, cioè è stato costretto alla respirazione assistita o no? No, per fortuna no. Per fortuna no. Senta, adesso è tornato a lavorare lei, a distanza ovviamente, anche con questa novità lanciata ieri dal capo della Protezione Civile, così diamo anche qualche informazione di servizio. Io personalmente sono tuttora in malattia, in convalescenza. Ok. E mi sono messo a disposizione, ho comunicato al mio sindaco, di dire: guarda, visto che si lavora via telefono, io mi metto a disposizione delle persone, dei miei pazienti, anche quelli dei colleghi che attualmente in parte mi sostituiscono per quello che possono, per dare delle consulenze di tipo sanitario a pazienti che magari conosco da 30 anni. Certo, giustamente, insomma, chiamatemi comunque, chiamate il vostro medico di fiducia, che pur convalescente, insomma, c'è. C'è questa novità, lo stavo dicendo agli ascoltatori, che è importante, insomma, è già attiva in realtà da qualche ora, in alcune regioni da qualche giorno, se non vado errato, così mi è stato detto, e però è stata ufficializzata ieri dal capo della Protezione Civile. Questa novità prevede che cosa? Che non si vada più dal medico di base per avere una ricetta, giustamente, anche devo dire la verità, ma si faccia qualcosa di molto più semplice, ossia si chiama il medico, se ha bisogno di una determinata ricetta il medico ti invia un codice, tu con quel codice vai in farmacia e in farmacia ti danno il farmaco del quale hai bisogno. Chissà, dico tra me e me, in realtà davanti a tutti gli ascoltatori, chissà quanto di tutto questo rimarrà quando saremo passati da questa emergenza, insomma, che comunque sono dei cambiamenti importanti nelle nostre vite, no? Poi domani anche nelle vite di voi medici, certo, di base. Ma da questo punto di vista viene un pochino da ridere, perché dice: si voleva il coronavirus per far sì che qualcosa che hanno definito come ricetta digitale potesse diventare in parte ancora, perché non è totalmente digitale, quindi senza più movimenti di carta inutili. Senta una cosa, lei sentirà immagino anche qualche altro suo collega, insomma, voi medici di base siete stati un po' una frontiera in questo senso, insomma, si segnalano anche dei medici di base che hanno perso la vita a causa di Covid-19, il livello di protezioni, come è stata gestita la cosa, che impressione ci può dare? Rispondiamo... Il vero, secondo me, mettiamo il dito nella piaga di uno dei veri problemi, che in parte può essere stato con causa di quello che sta succedendo in Lombardia, in Bergamasca, in Vestana e Cupello. Noi, qualunque sacro testo di epidemiologia o di GNN, quando si parla di pandemie o di epidemie, la prima norma da mettere in pratica come politica epidemiologica è quella di mettere in sicurezza i servizi sanitari e il personale sanitario. Solo perché sì. Se si ammalano questi non c'è più nessuno che ti cura, e contemporaneamente diventano loro stessi diffusori di questa benedetta epidemia. Diffusori a maggior ragione, più a rischio, perché mentre due persone si incontrano non sanno se sono sani o sono malati, di solito quelli che incontra il medico sono malati a cui può trasmettere il virus. Certo. Senza contare, poi domani, e con questa la ringrazio, quello che succede nelle sale d'attesa e quello che è successo in queste settimane nelle sale d'attesa, appunto, di voi medici di base, ovviamente. Non a caso, no? Ci sono stati anche un po' di contagi di quel tipo e anche a livello ospedaliero. Intanto la ringrazio, grazie a Pietro Poi Domani, medico di base a Cividate al Piano, provincia di Bergamo. Buon lavoro in giorni che ovviamente sono estremamente difficili. Vi voglio portare, visto che siamo sul tema dei medici, vi voglio portare su un altro fronte, che è quello della carenza di medici, perché per quanto tu possa creare delle strutture, e queste strutture vengono create progressivamente, per esempio a Cremona, dice l'assessore lombardo Gallera. Il numero dei soggetti Covid positivi sono 19.884, con una crescita di 2.171, è un dato significativamente più alto di quello di ieri. Anche i decessi continuano a crescere in maniera significativa, siamo a 2.168 persone. Vediamo se riusciamo a sentire Gallera sull'ospedale da campo di Cremona invece. Ce l'abbiamo? No, non ce l'abbiamo. E allora mettiamo Fontana sull'ospedale da campo a Bergamo. Quello c'è? È pronto? Via. I lavori riprenderanno, l'ospedale verrà realizzato perché siamo riusciti a recuperare un gruppo di medici che potranno andare a svolgere la propria attività e a rendere pertanto efficiente e efficace l'ospedale in questione. Si dice a Gallera, appunto, l'ospedale da campo a Cremona, via. A Cremona, grazie alla solidarietà e alla vicinanza delle chiese evangeliche, domani mattina io sarò presente, daremo il via all'ospedale da campo. 60 posti, 8 terapie, posti di terapia intensiva, una risposta potente. Però, appunto, il tema qual è? Il tema è chi ci metti a lavorare, chi ci metti a lavorare? Certo, c'è il richiamo dei medici dalla pensione, c'è l'utilizzo dei neolaureati per una serie di servizi di base. E però, dall'altra parte, hai bisogno di gente in corsia, di gente in terapia intensiva. E dunque, dice il capo della Protezione Civile Borrelli, dalla Lombardia c'è arrivata una richiesta e questa richiesta sarà soddisfatta da altre regioni. Questa è una richiesta che è alla valutazione del governo. Vi posso dire che noi stiamo elaborando delle ipotesi per supportare anche in questo campo la Regione Lombardia e nelle prossime ore vedrete che ci saranno degli sviluppi che vi verranno comunicati nel momento in cui saranno definiti. Eh sì, prendere i medici dalle altre regioni, ma le altre regioni in che condizioni sono? Il presidente delle Marche, Ceriscioli. E anche noi viviamo appieno i problemi legati alla scarsa distribuzione di dispositivi di protezione individuale, che sono quelli che chiediamo con insistenza. Sono arrivati dei 120 ventilatori promessi, ne sono arrivati 25 e ne abbiamo gran bisogno perché nei prossimi giorni continueranno a crescere il numero di quelli che hanno bisogno di questi dispositivi nelle terapie intensive. E per noi insomma è un fatto molto molto importante poter contare su questo. Abbiamo anche risposto all'appello fatto ieri dal governo, ma non come quelle regioni che possono dare i medici, ma come quelle che ne hanno bisogno, medici e infermieri, per rafforzare un sistema che è veramente messo a durissima prova. Vogliamo ribadirlo ancora una volta, perché vedo che più di un ascoltatore ci scrive. L'ultimo dice: riguardo alla carenza dei medici, avrei da dire che qualcuno si è inventato da un bel po' di anni il numero chiuso per accedere all'università. L'abbiamo ribadito più di una volta, ma lo dico proprio per chiarezza, cioè un dato di fatto, non è quello il problema della carenza di medici, cioè non è il numero chiuso, ma la carenza di scuole di specializzazione, di posti nelle scuole di specializzazione. Questo è. Dato che ci sono pochi posti nelle scuole di specializzazione, i laureati sarebbero anche abbastanza, e però non possono iniziare a lavorare subito perché devono prima fare la scuola di specializzazione. Chiaro, questo è il problema della carenza di medici storica in Italia degli ultimi anni. Traffico. Mattino. Ma un governo forte e chiaro le avrebbe già bloccate, non che se continuate così, ma come cazzo, ma questi non hanno le palle per fare niente, zero. Ciao Simone, ti sto ascoltando come tutte le mattine, ma questi militari che sono nelle caserme, in marina, da tutte le parti, che non sanno tante volte come fare a tirar sera, ma non si possono mettere in strada, sulle ambulanze o da qualche altra parte? Però per fare un lavoro di questo genere bisogna essere specializzati, bisogna saperle fare le cose, no? E anche quello, se volete, è un fronte di preoccupazione. Si parla di esercito per le strade, ma i militari sono preparati a fare il lavoro che fanno poliziotti, carabinieri o che fa anche la polizia locale, tanto per fare un esempio? È un tema, anche quello andrà a posto naturalmente. Prima di andare al nostro prossimo ospite, una risposta anche ad un altro ascoltatore e poi ci arriveremo in rassegna stampa. C'è questa storia che sta circolando molto dell'azienda di Brescia, quindi nel cuore del contagio. La quale azienda di Brescia ha venduto 500.000 di tamponi agli Stati Uniti, partiti con un volo militare dalla base di Aviano. E c'è grande polemica su questo perché rientra nel grande tema dell'approvvigionamento di materiale sanitario. Guardate che il problema non sono i tamponi, questa azienda ne produce 10.000.000 a settimana e li diffonde in tutto il pianeta, li vende in tutto il pianeta. Il tampone è, naturalmente, la dico proprio brutale, i medici mi ammazzeranno per questo, però è più o meno un cotton fioc, diciamo, insomma, un po' più specialistico, un po' più specifico, naturalmente. Il problema sono i laboratori di analisi che debbono riuscire, e il personale dei laboratori di analisi che deve riuscire a star dietro alla quantità di tamponi che vengono fatti. Cioè non è il numero di tamponi il problema, per intenderci, insomma, non è che ci stanno sottraendo qualcosa questi dell'azienda bresciana, giusto per essere chiari. È proprio in provincia di Brescia che andiamo, perché per andare al tema dei soggetti deboli. Soggetti deboli che sono tanti, naturalmente, molti di voi ci scrivono, alcuni di voi ci scrivono ogni giorno, dice: io a casa ho un figlio disabile o un figlio con disabilità mentale, non so che cosa fare, non so come muovermi, non so che cosa succede. E tra i soggetti deboli naturalmente ci sono gli anziani, e ancor più deboli ci sono quelli che sono nelle residenze per anziani. Allora abbiamo, avete letto nei giorni scorsi del caso del paese di Cingoli nelle Marche, dove c'è stato un numero record di vittime all'interno di una casa di riposo. Andiamo da Andrea Laffranchi, invece, in provincia di Brescia, Quinzano d'Oglio, presidente della residenza Villa Padovani. Buongiorno Laffranchi, benvenuto. Sì, buongiorno, mio nome è Luca, non Andrea. Luca Laffranchi, chiedo scusa, Luca Laffranchi. Senta Laffranchi, allora ci sono state nella vostra residenza ci sono stati 18 morti, e però di fatto un solo tampone, cioè solo per uno si è accertato che fosse Covid-19. Sì, i deceduti sono 22 a ieri 22 sera. A ieri sera. E il tampone è sempre solo uno, che è stato il primo deceduto, che risale a oltre 10 giorni fa. E su queste persone poi non si è fatta ulteriore verifica. E però è probabile che fosse quello, immagino. Cioè sì, i sintomi erano quelli, con comorbilità, come spesso avviene in luoghi come i vostri, no? Assolutamente sì. I sintomi erano quelli, naturalmente non abbiamo la certezza, però sia il numero esorbitante per quanto riguarda la nostra struttura, sia i sintomi specifici, quindi l'ipossia, la mancanza di fiato e la bassa saturazione, erano tutti sintomi legati al virus Covid-19. Quanti residenti avete nella vostra struttura normalmente? Attualmente 58, dagli 80 che erano. Ok, quindi perché naturalmente non possiamo accettare nessun altro ospite in questa fase. Ovviamente, naturalmente. Ci sono altri pazienti che presentano sintomi? Allora, gli ultimi più gravi purtroppo ci hanno lasciato ieri sera. Questa mattina ancora non ho sentito nessuno e li chiamerò un po' più tardi, insomma, per sapere com'è la situazione. Questo potrebbe voler dire, Laffranchi, lei si rende conto che il numero di vittime è sottostimato e immagino con una certa ampiezza, dico in assoluto, i numeri assoluti, perché io non so quante residenze per anziani per esempio ci siano in provincia di Bergamo, in provincia di Brescia, però insomma se il... Io ho la certezza che la nostra situazione è molto simile nelle case di riposo che ci sono qua nella mia zona, quindi sicuramente nella casa di riposo Villa Padovani ci sono molti casi che non probabilmente rientrerebbero. Altri decessi eccezionali ci sono stati nelle altre case di riposo, un numero esorbitante, un po' dappertutto, immagino che la situazione sia simile anche dalle altre parti, almeno nella nostra zona. Ecco. Questo perché immagino che avrà sentito anche dei suoi colleghi, insomma, di altre strutture. Certo. Le hanno. Sì, basta sentire. Più che altro sono i direttori sanitari tra di loro che si sentono, perché sono quelli che hanno più polso, più che noi presidenti, che noi siamo degli amministrativi, cerchiamo di coordinare, di reperire il materiale. Il nostro lavoro è un po' quello, insomma. Quelli sul campo sono i medici, gli infermieri, gli assistenti, gli operatori sanitari, sono loro che sono più sul campo, più di me naturalmente. Io tra l'altro riesco, cerco di andarci anche poco in questa struttura proprio per evitare di peggiorare la situazione. Ovvio, naturalmente. E come la stanno vivendo, come la sta vivendo il personale questa fase? Il personale è in estrema difficoltà, un po' perché siamo sotto organico, perché abbiamo molte persone in malattia, molto più del solito. Abbiamo anche la certezza di averne almeno uno positivo, che ovviamente in questo periodo è a casa, e l'abbiamo saputo da pochi giorni, un nostro infermiere. Sono molto stressati, estremamente affranti, perché poi la parola giusta è quella. Sono molto, molto tristi, anche perché si riesce a fare il lavoro poco e male, perché siamo sotto organico. I nostri ospiti sono quasi un mese che non vedono i loro cari, perché noi siamo chiusi dalla fine di febbraio, siamo chiusi all'accesso ai visitatori naturalmente. Cerchiamo di, quantomeno quelli che stanno bene, di alleviarli un pochino con la nostra animazione interna, con le videochiamate che facciamo con i parenti. Insomma, la situazione è questa. E poi la costante emergenza, la carenza dei dispositivi di protezione, anche se ultimamente qualcosa si è smosso, però le famose mascherine FFP3 ancora non le abbiamo. Speriamo arrivino domani, ma non lo so, quando non ho lo scatolone lì non ne so dire per certo. Certamente. Ascolti, Lanfranchi, c'è qualcosa che si potrebbe fare o che si doveva fare per evitare tutto questo? Non lo so, non glielo so dire. Forse l'allarme iniziale è stato un po' blando, ma io stesso l'avevo sottovalutato, quindi quando noi abbiamo deciso di chiudere mi era sembrata un'operazione eccessiva, però nella prudenza il mio direttore sanitario ha detto meglio chiudere, io l'ho seguito naturalmente. Quando il sindaco di Rosinuovi, paese qui vicino, estremamente colpito, aveva fin da subito dato ordinanza di chiudere i negozi, mi era sembrato eccessivo, invece l'aveva visto lungo. Non lo so, sinceramente prevedere il futuro è molto difficile, quindi poi da un punto di vista organizzativo quello che si poteva fare l'abbiamo fatto, sì, almeno per quanto mi riguarda l'abbiamo fatto, però il virus era probabilmente già entrato nella mia struttura. Sì, come diciamo spesso su questa vicenda, è terra incognita, non è facile, e anche le critiche che vengono fatte, prima ne abbiamo fatta sentire una di un ascoltatore, al governo, magari anche alle istituzioni locali, beh, insomma è un momento delicato per fare tutto questo, perché, ripeto, è terra incognita, è difficile capire come effettivamente muoversi. E chiudiamo ringraziando Luca Lanfranchi per essere stato con noi, per averci dato questa testimonianza, presidente della RSA Villa Padovani di Quinzano d'Oglio, provincia di Brescia, con quello che è il nostro inno di questi giorni. Lo ripetiamo ancora una volta, non un inno improntato a un ottimismo di facciata, ma un inno per farci coraggio, un Bob Marley che ci dice, insomma, non preoccupatevi. Alla fine tutto andrà bene. GR, ci ritroviamo subito dopo con la rassegna stampa.